Smart City. Voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Buonasera da Maurizio Melis. All'ultima 16ª World Conference on Earthquake Engineering di Santiago del Cile, quindi conferenza mondiale sulla ingegneria sismica, lo scorso gennaio l'ENEA ha presentato una serie di dati sperimentali su efficacia ed economicità dell'applicazione di vari sistemi di protezione sismica innovativa. Il tema, inutile ricordarlo, è di estrema attualità e noi ne parliamo con Paolo Clemente, che è dirigente di ricerca del laboratorio Ingegneria Sismica e Prevenzione di Rischi Naturali di ENEA, di cui è stato anche il portavoce nella conferenza appunto di Santiago. Buonasera Clemente. Buonasera. Dunque Clemente, nella vostra relazione avete toccato diversi punti. Tra gli aspetti più interessanti ci sono le vostre valutazioni economiche intorno ad una tecnica antisismica chiamata isolamento sismico. Ne abbiamo già parlato qui in trasmissione, ma le chiedo di ricordarci brevemente di cosa si tratta. Sì, diciamo lo stesso principio degli ammortizzatori di un'automobile. In questo caso interponiamo degli isolatori, che sono una sorta di molle, tra la fondazione dell'edificio e la struttura in elevazione, in modo che fungano da filtro alle onde sismiche. L'edificio al di sopra di un sistema di isolamento sismico avrà delle azioni sismiche estremamente ridotte, proprio come in automobile noi non sentiamo tutte le asperità del fondo del terreno. A voi dicevamo avete fatto anche delle valutazioni di tipo costo-beneficio, quali sono le conclusioni? Ma le conclusioni sono che se ben progettato l'isolamento sismico non è un costo aggiuntivo al normale costo di costruzione con tecniche tradizionali, anzi può portare addirittura a un risparmio soprattutto nelle zone ad alta e media sismicità. Questo vale sia per edifici nuovi in cemento armato sia per edifici nuovi in muratura. Cioè sostanzialmente, considerato il fatto che l'edificio non si danneggia neanche in caso di sisma, quindi non ci saranno costi di riparazione, se si fanno bene i conti, lei dice, nel lungo periodo questa è una delle tecniche che costa meno, è sì, giusto? Prima mi riferivo al solo costo di costruzione, se poi facciamo un discorso di lungo periodo quindi esteso all'intero ciclo di vita della struttura, la convenienza è ovvia, perché avremo un edificio che non bisognerà, come ha detto lei, di interventi di manutenzione a causa di danni provocati da un sisma. Mentre ci sono tecniche antisismiche che sono tali, perché l'edificio resta in piedi e non cade sulla testa degli abitanti, ma si danneggia e lì poi bisognerà intervenire con relativi costi. Un edificio tradizionale viene progettato perché si danneggi in occasione di un evento sismico, senza crollare, senza fare vittime, certo, ma comunque si danneggia, quindi poi c'era bisogno di costi di riparazione o in alcuni casi di ricostruzione abbastanza onerosi. Anche applicare questa tecnica dell'isolamento sismico a un edificio esistente è una soluzione economicamente conveniente. Ecco, precisiamolo che per piccoli edifici, oltre all'isolamento sismico, ci sono altre tecnologie. Il legno, per esempio, tende a essere intrinsecamente antisismico, ma su edifici un po' più grandicelli le cose diventano diverse. Se parliamo dell'esistente, va studiato caso per caso. È chiaro che laddove abbiamo un edificio, soprattutto se è un edificio alto, quindi di alcuni piani, che è intatto, quindi non ha subito danni, quindi può essere conservato così com'è, intervenire solamente con l'isolamento sismico alla base, quindi a livello della fondazione, può essere economicamente conveniente, e in genere lo è. È chiaro che laddove invece un edificio necessita di interventi anche nella sua parte in elevazione, l'isolamento sismico potrebbe risultare un costo aggiuntivo a tutto il resto. Cioè, a parte dove bisogna ricostruire, in linea di massima, su un grosso edificio l'isolamento sismico rimane un'opzione economicamente sensata. Certamente il costo in fondazione viene ammortizzato su un volume su tanti piani, maggiore, diciamo così. Senta, nella relazione avete parlato anche di impianti a incidente rilevante, impianti chimici, per esempio, che non so, hanno a che fare con sostanze tossiche oppure esplosivi. Ecco, quali sono le vostre osservazioni in merito? Ma intanto, se parliamo sempre di impianti a rischio di incidente rilevante di nuova realizzazione, l'isolamento sismico dovrebbe essere preso sempre in esame, perché come ho già detto prima comporta un grado di sicurezza, consente di perseguire un grado di sicurezza altrimenti non perseguibile con tecniche tradizionali, e questo vale a maggior ragione laddove abbiamo impianti a rischio di incidente rilevante che possano causare, in caso di terremoto, disastro, sia un notevole danno all'economia e sia un notevole notevole danno all'ambiente. Un disastro ambientale che si sommerebbe a un terremoto. Dovremmo pensare di prevenire questo. In Italia abbiamo tanti impianti a rischio incendio rilevante, potremmo programmare, io dico in tempi di pace, quindi prima di aspettare, senza aspettare che poi avvenga un disastro, un miglioramento, adeguamento sismico di questi impianti, cominciando dalle zone a maggiore pericolosità. Ecco, per capirci, non è che non esistano delle norme antisismiche che riguardano, come le abitazioni, anche gli impianti industriali e a maggior ragione quelli a rischio di incidente rilevante. Però non esistono norme che obblighino all'adozione delle, diciamo, tecnologie più all'avanguardia, delle best practice in campo antisismico. Non è obbligatorio adottare moderne tecnologie, tra cui l'isolamento sismico. Questo è obbligatorio solo nella Martinica, un'isola francese, solo per le scuole, per gli edifici pubblici. Però diciamo che, così come sta diventando una prassi anche da noi per le scuole, dovrebbe esserlo per gli impianti, ma anche per quelli già esistenti, cioè per un miglioramento, adeguamento sismico degli stessi. Va bene, grazie Clemente. Buonasera. Ci fermiamo qui, appuntamento a domani.